licenza di uccidere. Di certo non vi nasconderò che fa l'agente segreto. Su di una Porsche che si trasforma in un jumbo jet, neanche una grinza poi si vedrà sul suo impeccabile smoking che non si è macchiato mai. Mai dire mai, mai dire mai, mai dire mai, mai dire mai. Lei che fuma mille sigarette da bravo 007 se la porta in riva al mar, ehi, sul calar della sera tenendo alta la bandiera la sua missione compirà. Nelle sue tasche alla ricerca del microfilm, fluga anche dentro il suo slip e lì lo troverà. Il microfilm, il microfilm, il microfilm, il microfilm. Poi è nato questo folle amore, ormai compiuta la missione, lui la deve abbandonar. Ah sì, dolce bambina anima mia, è proprio vero che in amore non si può fare la spia. Ma poi il microfilm era bagnato, il nostro James è licenziato, questa è la triste conclusione.